Letture di Radio 24. Cercasi babysitter per accudire i figli e invece cercano escort di casa. Sono le storie di tre donne alla ricerca di un lavoro come bambinaie e che invece si sono trovate a rispondere del loro aspetto fisico e della loro disponibilità. Salve, chiamo per quel posto da babysitter. È ancora libero? Certo, quanti anni ha? 31. Single? Beh, sì, ma perché me lo chiede? Così, per sapere, e mi dica... Quanto porta di seno? Clic. Fine della telefonata. Subito dopo un'altra. Salve, chiamo per quell'annuncio letto sul giornale. Ha esperienze in merito? Sì, ho lavorato in un asilo nido per 3 anni. Bene, possiamo incontrarci per un caffè così vedo anche il suo aspetto fisico. Cosa? Deve sapere che oltre ad una bambinaia lei potrebbe arrotondare facendo altri servizi. Sa, a me piace ogni tanto variare. Stanca stare sempre solo con la moglie. Clic. Manuela M., quando butta giù il telefono, ha quasi le lacrime agli occhi. Si sente umiliata. Lei, educatrice di asili nido, vive in pieno la precarietà ed è costretta, come tanti altri, a rivolgersi a Porta Portese o Trova Lavoro. Con pazienza, cerca di capire gli annunci più idonei alle proprie caratteristiche, chiama e scopre che la maggior parte delle segnalazioni, sotto la voce babysitter, non è veritiera. Chi ha posto la richiesta mira ad altro. Chiami per fare la bambinaia e ti propongono di fare sesso con loro. O meglio, come riferisce Manuela, qualche lavoretto extra. Con i giornali in questione, che ovviamente non sono responsabili, come si legge nell'ultima pagina di Porta Portese, della qualità, provenienza, veridicità e puntualità degli annunci, né per le conseguenze dirette o indirette che possono derivare. Anna Lucia P., 39enne peruviana con permesso di soggiorno in regola, cerca lavoro come donna delle pulizie. Buongiorno, chiamo per quel lavoro da domestica. Scusi, ma è italiana? Vengo dal Perù. Allora è negra? No, sono bianca come la maggioranza dei sudamericani. Peccato, se fosse stata di colore avrebbe avuto un bel sederino. Che c'entra il lato B con il sistemare e pulire casa? Sa, mi piace guardare le belle donne e ogni tanto toccarle anche. Poi se vuoi ti faccio una prova di 2 ore, ovviamente pagata. Lei è un maiale. Guardi che ho una lista di donne che chiamano tutti i giorni, che a questo punto direi che sono più interessate di lei. Qui il punto. Sembrerebbe che in questi annunci combacino domanda e offerta, tanto che richiamando la stessa persona dopo una settimana arriva secca la risposta «ho già trovato». E questi sono gli annunci seri, perché altri sono palesemente truffaldini, dove è ovvio che i fini siano altri. Cerco babysitter, max 30enne, single e bell'aspetto, come se per tenere un bambino contasse l'aspetto fisico e non le esperienze. Oppure cercasi collaboratrice domestica età 25-30 anni, libera da impegni familiari, seria, onesta, non fumatrice e amante degli animali. La 40enne Amalia R., dopo mesi di telefonate, è ormai assuefatta. Le è successo di tutto, anche di andare a un colloquio per un posto da babysitter. Lei, che pur essendo mamma nella vita, ha sempre fatto l'impiegata. Avevo dubbi, racconta, perché la paga era alta, però ho deciso di tentare. Sembrava tutto andasse per il meglio, soprattutto quando all'incontro, oltre al papà della bimba, c'era anche la mamma. Insomma, tutto filava per il meglio. Amalia stava per accettare il lavoro quando lui le spiega i motivi della compensa elevata. Ogni tanto, il sabato e la domenica, mentre nostro figlio sta dai nonni, ci piacerebbe che lei venisse comunque a casa. Come dirle? A me piace osservare mia moglie mentre amoreggia con altre donne. Mi capisce? Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Rispondi agli annunci per babysitter e ti chiedono di fare l'escort di casa» di Giacomo Russo Spena, pubblicato da Il Riformista di sabato 22 gennaio. Letture di Radio 24. Diego Della Valle, il patron della TOZ, ha stanziato 25 milioni di euro per i lavori di restauro di uno dei monumenti più famosi del mondo, il Colosseo. È la prima volta nella storia dei beni culturali italiani che un privato investe una cifra simile. Potrà essere così anche per Pompei? È quello che si chiede Paolo Conti sulle pagine del Corriere della Sera. Dunque, per il Colosseo è fatta. Per la prima volta nella storia dei beni culturali italiani, un privato stanzierà 25 milioni di euro per il completo restauro di uno dei monumenti più famosi dell'intera umanità. Della Valle potrà sfruttare, entro precisi limiti, l'immagine dell'anfiteatro Flavio. In cambio, Roma e l'Italia riavranno un nuovo monumento che potrebbe, grazie al restauro, svelare ulteriori segreti, come suppone il grande archeologo Andrea Carandini. Il contesto è noto. Il Ministero dei Beni Culturali potrà contare nel 2011 su una capacità di spesa pari ad appena lo 0,19% del bilancio statale. Nel 2004 eravamo allo 0,34%. Comunque un fanalino in Europa, ma abbastanza per non gridare al disastro. L'Italia guida la lista dei paesi più ricchi di beni dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Deteniamo un record che è il tipico onore e onere, e lo dimostra l'agonia di Pompei, gli stessi cedimenti registrati dal Colosseo. Lo strumento faticosamente individuato dal commissario dell'area archeologica centrale di Roma, Roberto Cecchi, che è anche il segretario generale del Ministero, può diventare un testo pilota di collaborazione tra privati e Stato proprio in materia di recupero dei tesori culturali. Fermo restando l'obbligo per la mano pubblica di vigilare e non cedere sulla tutela, la Costituzione, l'articolo 9, ne fa un vincolo fondativo della Repubblica, è chiaro che sono finiti i tempi dei fondi per restauri e recuperi a pioggia. Non solo l'Italia, ma tutti gli Stati moderni si avviano ad essere più leggeri. E il sostegno della mano privata diventa un obbligo anche etico, di responsabile compartecipazione alla salvezza dei beni collettivi. Lo strumento adottato per il Colosseo, nella sua assoluta trasparenza amministrativa, può indicare molte strade, per esempio per Pompei, evitando, proprio grazie alla chiarezza, possibili infiltrazioni malavitose negli appalti. E per tanti altri casi, basta volerlo, con intelligenza, lungimiranza, senza mai cedere sul principio tutela. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Un accordo da imitare, per esempio a Pompei, di Paolo Conti, pubblicato dal Corriere della Sera di sabato 22 gennaio. I dati sono impietosi e parlano di un paese, il nostro, in cui una donna su due non lavora e un giovane su cinque non studia né ha un'occupazione. Altri paesi, come Germania, Danimarca e Olanda, hanno invece puntato molto su queste due categorie, investendo nella formazione e nell'inserimento delle donne e dei giovani nel mercato del lavoro. Luigi Tivelli, sulle pagine de Il Messaggero, riflette su questi dati. La condizione reale delle donne italiane non è certo quella che emerge dalle intercettazioni sulle pruriginose vicende di Arcore, bensì nel recente dossier Noi Italia, presentato dall'Istat. Analogamente, la reale condizione dei giovani italiani non è quella che emerge da trasmissioni tipo Il Grande Fratello, ma quella che risulta dallo stesso dossier dell'Istituto Centrale di Statistica. Siamo agli ultimi posti in Europa per tasso di occupazione femminile, 46,4%, meno di una donna su due ha un lavoro. I giovani che non lavorano e non studiano sono il 19,2% e siamo quindi penultimi in Europa, seguiti solo da una piccola isola mediterranea come è Malta, mentre la media europea è del 14,4%. Si potrebbero snocciolare altri dati, ma già questi bastano a definire i fenomeni in atto, salvo ricordare l'ultimo dato per cui in Italia, grazie soprattutto all'incidenza delle donne e dei giovani, ben il 37,6% della popolazione non ha un lavoro, a fronte di una media del 28,9% in Europa. Disponiamo pertanto di un'analisi e di una diagnosi su cui necessariamente c'è concordia diffusa. Il problema è che ben pochi si dedicano alla terapia. Eppure il modo più serio per celebrare i 150 anni dall'Unità d'Italia dovrebbe essere quello di incidere finalmente sulle piaghe fondamentali del paese, a cominciare proprio dall'occupazione dei giovani e delle donne. Come si può accettare di vincere la sfida del presente e del futuro lasciando le forze più vitali della squadra in panchina? È stato calcolato che il solo ingresso di 100.000 giovani sul mercato del lavoro si tradurrebbe in una crescita del PIL di 0,2 punti e che l'ingresso di una quota analoga di donne avrebbe un impatto sul PIL di circa 0,3 punti. Questo l'hanno capito soprattutto paesi come la Danimarca, l'Olanda e la Germania, per i quali la chiave del successo nell'inserimento di quote sempre maggiori di giovani e donne nel mercato del lavoro è il collegamento tra formazione e percorsi di apprendistato. In Italia, invece, c'è una sostanziale cesura di questi due mondi e la formazione professionale è più che mai abbandonata a se stessa. La scelta di delegarla alle regioni si è rivelata letale in quanto le attività di formazione professionale hanno sin qui brillato più per casi di malversazione e reati vari contro la pubblica amministrazione che per capacità di generare opportunità di lavoro. In quegli stessi paesi, poi, e in Inghilterra con il recente New Deal for Young People, Il sistema degli ammortizzatori sociali è stato riequilibrato sulla base di fondi, sussidi, sgravi e crediti fiscali per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. A casa nostra, invece, i giovani trovano quasi esclusivamente lavori flessibili, che in pratica sono solo lavori precari, mentre il lavoro a tempo indeterminato è prerogativa esclusiva degli adulti e i giovani pagano l'estrema rigidità del lavoro garantita agli ultraquarantenni. E non a caso una buona parte dei nostri talenti fuggono dall'Italia. I lavoratori più anziani già hanno trasferito un debito pubblico di circa 80.000 euro a testa ai giovani italiani e ora stanno trasferendo sempre più su di essi i costi legati ai propri lavori privilegiati. In questo quadro, nonostante il Capo dello Stato abbia incentrato il suo messaggio di fine anno sulla questione giovanile, il mondo politico e anche le stesse forze sociali sono più che mai latitanti su questi gravi problemi sociali che a 150 anni dall'unità del Paese richiederebbero un vero e proprio nuovo risorgimento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ripartire da giovani e donne per rilanciare l'economia italiana di Luigi Tivelli, pubblicato da Il Messaggero di domenica 23 gennaio.